Italy. Yeah, I love Italy. Don Andy Mangiarotti su Radio Miami. I love Italy. Yeah, yeah, yeah. I Love Italy su Radio Miami International. Buongiorno a tutti, se ci ascoltate magari in una nazione dove è appunto giorno, buonanotte, buon pomeriggio, a seconda da dove ci state ascoltando nella vostra nazione del cuore. Questa è I Love Italy, i vostri 15 minuti in lingua italiana con il vostro Andy Mangiarotti, in onda su Radio Miami International, Double RMI. Siamo in onda grazie al buon cuore di Jeff White, editore di Radio Miami, su alcune frequenze. Ci potete ascoltare sui 15.770 kHz, nonché anche sui 7.730 kHz ed infine sui 5.850 kHz. Un saluto, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, benvenute e benvenuti. Se volete interagire con la trasmissione, ricordate i miei siti web, dove trovate tutti i contatti, tutti i riferimenti: www.voiceofitaly.it, il sito ufficiale della trasmissione. Poi c'è anche il mio sito personale, aggiornatissimo, www.andreamangiarotti.com, per leggere un po' e scoprire la mia storia, la mia biografia. E poi abbiamo anche il sito di Radio Miami, che ci ospita, wrmi.net. Questi sono tutti i vari riferimenti per interagire con Andrea. Se volete richiedere una cartolina QSL o semplicemente un gadget della nostra trasmissione, ricordate la mia mail andrea@mangiarotti.org. You are listening to the Italian language broadcast of WRMI Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world. Benvenuti a tutti a I Love Italy, il vostro rotocalco mensile in lingua italiana, appunto in onda su Radio Miami International, questa storica emittente internazionale con i suoi potenti trasmettitori e antenne situate a Okeechobee in Florida. La nostra Double RMI raggiunge tutto il mondo. Ora però abbiamo un bel po' di amici da salutare che hanno ascoltato I Love Italy, alcuni ci hanno inviato anche un rapporto di ricezione. Iniziamo con un amico che appunto ci ha scritto dall'Italia. Gentili amici, sono Gioacchino Stallone, un radioamatore SWL BCL, socio ARI, Associazione Nazionale Senior Rai di Roma. Delle volte ascolto il podcast del vostro bel programma I Love Italy, mi piace tanto, vi auguro tante cose belle. Il vostro amico Gioacchino Stallone da Marsala, Sicilia, Italia. Buonasera Andrea, sono Francesco e abito in Valtellina, vicino a Sondrio, e sono appassionato di astronomia elettronica, radioamatore ed SWL dal 1982. Ovviamente amo la musica e ascolto la tua web radio. Si riferisce a Radio Oltre Popavese, il caro amico Francesco. Ma chi ha ascoltato le onde corte nel secolo scorso non può farne a meno e quindi continua ad ascoltare e preferire le onde corte, quel poco che resta. Una voce in italiano poi è sempre un piacere. E mi scrive appunto: grazie per quello che fai. E appunto questa sera ho ascoltato la tua trasmissione dalle ore 21 sino alle 21.15 UTC sulla frequenza dei 15.770 kHz via Radio Miami International, con una discreta qualità. Solitamente i 15.770 kHz arrivano meglio la mattina, questa volta mi è andata bene. Concordo con Vito che sarebbe bello aumentare la lunghezza del tuo programma. Allego brevi spezzoni audio per valutare il segnale. Se il rapporto di ricezione è corretto, chiedo cortesemente una QSL di conferma. Cordiale salute a te e famiglia. Francesco, codice identificativo radioamatore IW2DBM. Ringraziamo anche Francesco dalla Valtellina. E dalla bella Valtellina ci spostiamo a Civitavecchia, Roma. Ciao Andrea, sono un radioamatore e il mio nominativo internazionale è IK0PHU. Oltre alla trasmissione mi piace molto ascoltare le emittenti mondiali in onde corte. Questa sera sono riuscito ad ascoltare la tua trasmissione da Radio Miami. I Love Italy, un'emissione di grande potenza con un segnale stabile e ottima presenza. Ho ascoltato spesso WRM, ma non ho mai avuto la costanza di aspettare le 23 locali per riuscire ad ascoltare la tua voce. Questa sera ci sono riuscito, di solito mi sveglio presto la mattina per fare radio, ma questa sera avevo deciso di aspettare. L'attesa è valsa sicuramente l'impresa. In allegato il mio rapporto d'ascolto, spero tu apprezzerai. I miei migliori saluti a te e a tutto lo staff di Radio Miami, spero di ricevere un tuo cortese riscontro. Ciao Antonello Urbani, codice identificativo radioamatore IK0PHU. Queridas oyentes, están escuchando los programas en italiano de WRMI, Radio Miami International. En el aire, Andy Mangiarotti. Para contactar con la redacción italiana, visiten los sitios web voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com o www.wrmi.net. Disfruten con I Love Italy, la voz de Italia, el programa que habla italiano en el mundo. E andiamo avanti con tanti altri amici che insomma stanno apprezzando la trasmissione. Questa volta ci spostiamo in Russia, per l'esattezza a San Pietroburgo. Mi scrive tramite email Vyacheslav Sherzhinov, spero sia giusta la pronuncia, mi scuso con l'amico russo. Il nostro amico che ci ascoltava da San Pietroburgo mi ha mandato un rapporto di ricezione molto dettagliato, data d'ascolto 25/10/2025, frequenza 15.770 kHz, orario UTC 20:46 sino alle 20:59, location San Pietroburgo, Russia, eccetera eccetera. Ci segnala un Simpo 55545, il programma appunto vedo che lo ha apprezzato molto. Mi ha mandato anche diciamo così ciò che ha ascoltato, ha praticamente scritto tutte le parole che ho pronunciato per farmi sapere appunto che ha ascoltato la nostra Radio Miami. Spera tanto di ricevere la cartolina QSL, assolutamente, appena possibile manderemo una bella cartolina QSL anche in Russia a San Pietroburgo. Grazie ancora a questo amico Vyacheslav Sherzhinov, grazie tante. E andiamo avanti a un altro, con un altro bel messaggio questa volta che ho ricevuto tramite Facebook. Ciao Andrea, ti avevo inviato i miei saluti e ringraziamenti per l'interessante programma in onda da WRMI. Come radioamatore particolarmente impegnato in radioascolto internazionale, come giornalista credo di poter offrire un mio servizio collaborativo a disposizione di Radio Miami International. Poi mi scrive se vivo in Italia, assolutamente sì, caro amico, dovrò contattarti tramite email, e lui è Alfredo Gallerati. Un caro saluto, assolutamente Alfredo, ci sentiamo, ci aggiorniamo per diciamo così discutere insieme di radio, onde corte, Radio Miami e tutto ciò che ruota questo meraviglioso mondo. Ed ora parliamo di generosità. Non è una questione di quantità, ma di intenzione. San Paolo ci ricorda che il dono più prezioso è quello che nasce dal cuore, senza obbligo, senza tristezza. Quando doniamo con gioia, noi stiamo solo, non stiamo solo offrendo qualcosa, stiamo condividendo una parte di noi, un frammento di luce che può riscaldare chi è nel buio. La gioia nel donare è contagiosa, un gesto sincero può accendere speranza, costruire ponti, far sentire meno soli le persone che sono in difficoltà. Non serve essere ricchi per essere generosi, basta essere presenti, attenti e disponibili. Oggi prenditi un momento per ascoltare il tuo cuore. Cosa ti spinge a donare? A chi puoi offrire un sorriso, un aiuto, una parola gentile? Per passatempo, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, conduco alcuni programmi radiofonici, questo ovviamente su Radio Miami, e poi altri programmi in piccole realtà italiane. Non sono certo uno speaker famoso, ma ho imparato che la voce può arrivare lontano, soprattutto quando è sincera. Proprio per questo ho deciso di avviare una raccolta fondi nata da un'idea semplice. Usare la radio, in questo caso Radio Miami, non solo per intrattenere, ma anche per aiutare. Pochi euro donati con il cuore possono veramente aiutare chi attraversa un momento difficile. Non ho fissato una cifra alta, perché non cerco, diciamo così, delle somme esorbitanti. Cerco partecipazione. Chi vorrà donare sarà tutelato. Mi impegno personalmente a garantire trasparenza e onestà. Insieme possiamo decidere a chi destinare questa raccolta fondi, questi pochi euro che riusciremo a raccogliere, perché appunto, purché si trattino di realtà serie, onlus serie, associazioni serie e soprattutto persone realmente in difficoltà. Come diceva San Paolo nella Bibbia, ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Era estratto dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 9, versetto 7. Questa è la mia voce, se vuoi puoi diventare anche la tua. Trovi il link per la petizione sul mio sito personale www.andreamangiarotti.com. Noi vi ricordiamo anche questa mia iniziativa attraverso questo jingle in lingua inglese. As a hobby, I host a few radio shows. I'm not a famous broadcaster, but I've learned that a sincere voice can travel far. That's why I started a fundraising campaign based on a simple idea. Using radio not just to entertain, but to help. Just a few dollars, given from the heart, can make a real difference for someone going through a tough time. I haven't set a high goal, because I'm not seeking fame, I'm seeking participation. Anyone who chooses to donate will be protected. I personally commit to transparency and honesty. Together, we can decide where the funds go, as long as it's to trustworthy organizations or people in genuine need. As St. Paul says in the Bible, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7. This is my voice. If you'd like, it can become yours too. You'll find the link to the petition on my website, https://www.andreamangiarotti.com. Cari amici e cari amiche, noi siamo arrivati in fondo. Grazie a Jeff White per lo spazio. Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente. Da Andy è tutto, un saluto, buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di Radio Miami International. Ciao, ciao, ciao, ciao. Love Italy, yeah. I love Italy. Con Andy Mangiarotti su Radio Miami. I love Italy, yeah.